per me non cambia niente. Puoi dormire dove vuoi, basta che tu sia presente. Quando mi innamorerò, ho perso il conto dei ripensamenti sull'amore che non è un'idea. Brilli come un riccio sull'asfalto, nei pensieri miei. Sì, lo so che ti confondo se sparisco per un po', tanto sai che poi ritorno per vedere come sto. Se riusciamo a perdonarci tutto, a non fidarci della nostalgia, cosa c'è di male se stai bene solo a casa mia? Gunther Anders fu lasciato da Naren, sai perché? Era troppo pessimista per sognare insieme a lei. Ferma su quella salita, io ti vedo sempre là. Che cos'altro vuoi che dica? Non so molto dell'amore. In verità, non mi ferisce niente. Puoi colpirmi dove vuoi, voglio essere cosciente. Quando mi addormenterò, non ho sprecato un grammo della vita, ho sempre avuto poca fantasia. Ma oggi ho visto un cervo sulla spiaggia mentre andavo via. Leonard Cohen lasciò Hydra e con lei lasciò Marianne, non sapendo bene ancora perché andasse via di là. Un barlume di successo, un'idea di libertà, una folla di silenzio, tanto sesso e poco amore. In verità, per me non cambia niente.